ci riesci tu a sentirti libera, a cercare oltre il cielo grigio della mia città. Come ci provo io, nessuno lo capirà. Tempo di una litro al tarte, poi sarà quel che sarà. E se no tu non ci pensi, tu non ce la farai. Tu che intanto ti allontani urlando che ritornerai. Io che ci sono dico che tu ci sarai, come voce ad un concerto, come causa dei miei guai. Ma se noi, io non so perché, però magari io sono pazzo. Rigiovanisco io e mi inventerò un'età. So qualcosa da insegnare, la mia quotidianità. Come dicevi tu, il futuro mi bacerà. Sono stanco dei suoi baci, voglio andare.